Adesso vorrei fare alcuni commenti del lavoro di questo video di Recalcati, Massimo Recalcati, dal punto di vista di Aleph, quindi metterci un po' dei nostri contenuti. Allora, e quindi anche un confronto delle terminologie. Allora, quando Recalcati parla di desiderio, ecco, visto dal punto di vista dell'Aleph, di Aleph, nostro, la prima cosa che ci viene da chiederci è: ma ne parliamo perché a livello animico o a livello egoico, ci cioè dobbiamo introdurre subito questa distinzione. Perché la parola è la stessa, ma ciò a cui si riferisce sono due cose completamente diverse. Allora, il desiderio è animico quando è un desiderio di bene, è un desiderio di giustizia, è un desiderio di bene mio che non può mai essere disgiunto dal tuo e anche dal bene degli altri, di tutti gli esseri. Questo bene che è mio e che è tuo e che non può essere disgiunto da quello degli altri esseri è ciò che, se io tenendo in considerazione e la mia vita si ispira a quello, vivo una vita grande, una vita piena, piena di amore, perché amore è proprio anche dedizione alla cura. Ci sono tanti tipi di amore, come ci insegnano i greci: c'è l'eros, c'è amore desiderio, ma c'è la filia, c'è l'amicizia, c'è l'agape, c'è l'amore fraterno. Ma c'è la caris, l'amore cura, compassione. Allora, l'amore animico è un po' l'insieme delle forme superiori dell'amore, è quello che porta nella vita la gioia. Se parliamo di desiderio egoico, beh, il desiderio egoico sappiamo che per un cammino spirituale è un po' spesso l'ostacolo, nel senso che il desiderio egoico è un desiderio di un oggetto, ma visto così, insomma, se questo è l'ego, l'ego si concentra su una oggetto che può essere una donna, un uomo, una casa, un'automobile, una carriera, si concentra su questo, si attacca a questo desiderio, si attacca, eccolo lì, ci si appiccica, e proprio mentre sviluppa attaccamento, immediatamente sorge l'avversione per qualunque cosa che possa ostacolare questo desiderio. Quindi, mentre il desiderio animico non è un desiderio con attaccamento, ma un desiderio in espansione, come il raggio di sole, che illumina tutti, e il desiderio egoico invece è un desiderio che si accompagna a attaccamenti e avversioni. Quindi di per sé è un problema, non è la soluzione. Allora, quando Recalcati parla di desiderio, poi lui lo chiarisce molto bene, molto, molto interessante il suo discorso, ma dal nostro punto di vista, appunto, voglio esprimere qual è il nostro linguaggio sin dall'inizio per evitare ogni possibile confusione, visto che noi non partiamo dal modello psicanalitico. E adesso dico due parole sul modello psicanalitico, quello che è più semplice che posso dire, insomma, anche prendo le lezioni Galimberti, che mi sembra piuttosto interessante. La visione freudiana è più o meno questa: l'io è in mezzo a due forze, l'inconscio sociale, che vuole il suo adattamento alla regola e alle norme, e l'inconscio pulsionale, che invece fa la sua strada. L'inconscio pulsionale è individualista, l'inconscio sociale cerca di sviluppare l'appartenenza. Ecco. Quindi da un certo punto di vista potremmo dire qui c'è lo sviluppo dell'identità, se io posso sviluppare, no, le mie pulsioni, questo mi fa sentire vivo, mi fa sentire me stesso, ma d'altra parte mi devo adattare perché se no non appartengo a niente, quindi c'è l'altro tema, quello dell'appartenenza, che limita l'esplorazione piena della mia identità. La sto dicendo in modo molto rozzo, insomma, così. Quindi questo io, secondo Freud, almeno così come lo interpreta Galimberti, che mi sembra piuttosto attendibile, dice: Dio è sempre in balia di queste due forze e quindi è un mediatore, talvolta ci riesce, qualche volta no. Quindi la psiche, perché questa in fondo è la psiche, è conflitto tra questo contro questo. Da qui, detto in due parole, disagio della civiltà, perché la civiltà comunque cosa significa? Che io rinuncio a un po' di soddisfazione pulsionale, o tanta soddisfazione pulsionale, per l'appartenenza, cioè per un po' di sicurezza. Qui ho la sicurezza che mi dà l'appartenenza, e qui invece avrei la soddisfazione da pulsione. Adesso la faccio molto breve perché, no, insomma. Ecco, bene, come Recalcati parla del desiderio, dell'inconscio, interpretando poi l'inconscio freudiano in base alla visione di Lacan, è una cosa, mi sembra un po' diversa da questa qua, qui non ho la competenza sufficiente però mi sembra un po' diversa, perché dice Lacan: L'inconscio freudiano non è stato scoperto da Freud. L'inconscio, parte che l'inconscio come il fatto che noi siamo guidati da forze diverse da quelle che noi creiamo, diverse dalla ragione, è qualcosa che l'umanità conosce da sempre, da Platone in poi. Poi ci sono tanti autori, no, che ce lo dicono. Ma l'inconscio, secondo Lacan, è proprio scoperto, è inventato da Freud, nel senso proprio è originalità di Freud, è che l'inconscio, quello freudiano, in fondo è il soggetto del desiderio, cioè dentro l'inconscio freudiano c'è un soggetto del desiderio, c'è cioè un altro me stesso che ha un desiderio che vuole realizzare nel mondo. Ma naturalmente il mondo per la cultura in cui viviamo, che è oppressiva, quello che è, non consente. E allora l'inconscio si esprime in un linguaggio cifrato che è quello dei simboli, scusate, dei sintomi, dei sogni, dei lapsus e così via. Quindi il lavoro della psicanalisi consiste nell'imparare a capire il mio soggetto del desiderio, che sono la parte di me più importante, a capirla perché la psicanalisi è in grado, lo psicanalista è in grado di darmi le chiavi per capire questo linguaggio cifrato, che non è universale, quello freudiano, ma a differenza di quello di Jung, dice Recalcati, ma è un linguaggio personale, ognuno di noi ha un po' il suo e quindi bisogna fare un lavoro specifico sulla persona. In altri termini, il sintomo è come un libro che va letto e interpretato, ma è come fosse scritto in fenicio o fosse scritto in aramaico, fosse scritto in sanscrito, insomma, ci vuole qualcuno che mi aiuta a riscoprirlo. Allora, dice ancora Recalcati in un suo altro bellissimo video. Dice che in fondo per la psicanalisi c'è un'unica colpa, un unico vero peccato, che è non comprendere e non mettere quindi in atto, portare in realizzazione il desiderio. Cioè portare il desiderio che non è qualcosa, non è un capriccio, ma è qualcosa che mi contraddistingue come essere umano, è la mia cifra personale. E lì c'è tutto il discorso che abbiamo fatto visto nei video di sopra, quindi non ci torno sopra, che perché questo desiderio possa emergere nell'essere umano e non diventare capriccio, ha bisogno di incontrare la legge. Ecco, e questo è il simbolo del padre. Benissimo. Fatta questa premessa, siccome noi veniamo dalla psicologia umanistica, che è un altro mondo, diciamo, ma allora questo desiderio di cui parla Lacan, corrisponde in qualche modo alla mission, così come intesa da noi nella PNL, cioè quella cosa che se io riesco a mettere in atto, tutti i miei vettori interni vanno allineati, ecco, cioè è qualcosa di questo tipo. Quello che fa sì che io, anziché vivere nel conflitto, nel conflitto tra conscio e inconscio, tra ragione, emozione, vivo in armonia al mio interno, o quantomeno comincio a delineare i miei vettori, o in altri termini posso assimilarlo al daimon dei greci, cioè il talento, la qualità fondamentale che se io seguo vado incontro a una vita in cui c'è felicità, una vita piena. I greci parlavano appunto di eudaimonia, quando ho un buon demone, ecco. Ho l'impressione che ci sia qualcosa in comune e quindi questo già potrebbe essere una cosa interessante da vedere fino a che punto in comune, che cosa c'è di diverso. In ogni caso, ho l'impressione che ci sia comunque una differenza fondamentale, e però non sono sicuro. Sentendo Recalcati parlare, ho come l'impressione di avere di fronte un uomo con una tensione spirituale molto alta. C'è una persona che è veramente una persona, dico proprio così, a pelle, una persona molto onesta, una persona a cui io fossi una persona che bisogna analisi, andrei certamente da lui, perché lo trovo una persona congrua che veramente dice parole di verità, gli escono perché lui le incarna e quindi corrisponde alla definizione di adulto che lui stesso dà, cioè lui dà peso alle sue parole e per questo io mostro. L'ho subito provato per lui stima e affetto e anche grande riconoscenza per il fatto di esprimere questo, portare a mia conoscenza certe cose del mondo di Lacan di cui sapevo quasi niente in un modo così chiaro. Quindi ho gratitudine proprio. Detto questo, sento lui come essere spirituale, come del resto è stato mio maestro Porena, che è un uomo spirituale sicuramente, ma che non riconosce di essere spirituale, cioè o quantomeno non prende in considerazione questo fatto. Sicuramente cosa si intende per spirituale in termine, capisco bene che può prestarsi a molti equivoci. La faccio molto breve, mi ricollego a cose di cui abbiamo già parlato tante volte. Mi rifaccio alla visione che ha Marco Vannini, uno dei più grandi filosofi italiani, secondo me, e che ha il grande merito di aver portato a livello di molta chiarezza che cos'è mistica. Mistica, una ventina di libri è scritto su questo, quindi la mistica, il fondamento della mistica occidentale è il convivio di Platone, poi quindi il movimento del platonismo che è poi è confluito nel cristianesimo e così via. Mistica che c'è non solo in Occidente, ma che c'è in Oriente, che c'è in tutti i paesi, in tutti i continenti, con forme diverse. La nostra mistica è un po' caratterizzata dal logos, la mistica occidentale, dal ruolo centrale che ha la parola. Allora, perché cito il discorso di Vannini? Perché Vannini è molto chiaro su questo punto. Dice: l'essere umano, la vera natura profonda dell'essere umano è questa qua, la natura spirituale, questa. Perché? Perché ce lo dicono i più grandi uomini, i più grandi maestri. E la psiche? Beh, la psiche è una componente dell'essere umano, è una componente necessaria, c'è per forza, perché fa parte della sua evoluzione. Ma la psiche, quindi è utile la psicologia, è utile la psicanalisi, ovviamente, ma queste forme, la psicologia, le psicoterapie, non possono assumere il ruolo arcontico, cioè nel senso di assumere un ruolo decisivo, dire l'ultima parola, perché secondo Vannini l'ultima parola appartiene allo spirito. Lo spirito, in altri termini, è il luogo dove noi possiamo accedere al livello più alto della nostra comprensione del mondo e di noi stessi. E questo è un tema che a me piacerebbe molto ovviamente discutere con Massimo Recalcati e spero un giorno di poterlo fare. Molto semplicemente, vi cito ancora altre cose di cui ho parlato molte volte, prendiamo questo schema ovoide di Assagioli, vediamo i tre livelli, inconscio inferiore, inconscio medio, inconscio superiore. L'inconscio superiore è l'aspetto spirituale dentro l'uomo, qui diciamo che risiede la sua scintilla divina. Questo è il luogo dei conflitti più forti, questo è il luogo dell'io, la zona dell'io adulto, è il luogo del contratto, è il luogo della reciprocità, è il luogo della comunicazione corretta, ma non è ancora il luogo dello spirito, perché il luogo dello spirito, come dicevo prima, non mi ricordo, no, forse non dicevo, lo dico adesso, il luogo dello spirito è il luogo dove si cerca il bene e la giustizia. Per chi? Per me stesso, per prima cosa, bene, giustizia per me, per tutte le mie parti interne e per le persone che mi stanno intorno in cerchi sempre più ampi, fino a includere tutti gli esseri. Questo è lo spirito. Lo spirito è il movimento, lo spirito non può prescindere dal movimento. Per sapere qual è il mio bene, devo sapere anche il tuo, per fare questo devo sapermi spostare dentro di te e vedere il mondo con i tuoi occhi, gli occhi di un'altra persona, gli occhi di un'altra e così via. E questo è il movimento dello spirito, puoi vedere il mondo con gli occhi, tra virgolette, di Dio, cioè di colui che riesce a vedere tutti gli esseri insieme, qual è il bene per tutti. Questo esercizio, non fatto una volta, ma tutti i giorni, ripetuto continuamente, era in fondo quello che Platone riteneva la formazione, la paideia, per poter uscire dalla caverna dove gli esseri umani sono rinchiusi e vivono come schiavi. Schiavi di chi? Ecco, ritorniamo, parliamo adesso della caverna di Platone, schiavi delle illusioni. Quindi gli uomini dentro la caverna vivono, sono addormentati, come direbbe anche Eraclito, poi per risvegliarsi bisogna uscire dalla caverna, ma per uscire dalla caverna, dice Platone, bisogna saper sganciare le catene che tengono i piedi e che tengono la testa, bisogna girare tutto il corpo, volgersi verso l'esterno e cominciare ad andare, risalire. Un percorso che è pieno di ostacoli, molto difficile, fino a che si arrivi alla luce del sole, dove posso osservare la verità così com'è. la verità così com'è è bene, è giustizia ed è felicità ed è beatitudine. Quella che la finale di Spinoza, quello per capirci, viene definita beatitudine, beatitudo e salus. Questo è un po', mischiando un po' le cose, ma insomma, poi, è il compito dell'essere umano che vuole risvegliarsi, cioè l'essere umano che vuole conoscere se stesso deve conoscere la sua natura, ma per conoscere la sua natura deve conoscere la natura del mondo, e quindi Platone dice occorre saper vedere la realtà nascosta sotto l'apparenza. Verità in greco si dice aletheia, alfa privativo, privativo, letes vuol dire nascosto, quindi è sempre la verità uno svelamento. Allora, dicevo prima, questo l'ho già detto, quindi non mi ripeto, quindi dentro ogni essere umano ci sarebbe questa scintilla divina, cos'è il divino? È il bene e la giustizia, come diceva Platone, e quindi è il bene di tutti, è il bene comune. Bene comune che fa sì che se viene ricercato da ogni cittadino, beh, la polis gode di buona salute. E questa sarebbe la politica. L'uomo politico, ricordiamoci che la politica viene inventata dai greci, e la politica come arte di governo è quella che fa sì che un governante crea le condizioni affinché i cittadini possano avvicinarsi a vedere la verità, cioè a vedere ciò che è nascosto dalle apparenze, quindi uscire dalla doxa, dall'opinione, dall'illusione e andare verso la verità. Questa verità non è la conoscenza dell'atomo o la distanza dalla Terra alla Luna, non è la verità della fisica. La verità è la struttura profonda dell'universo che sono le relazioni armoniche. Senza relazioni armoniche non ci può essere la vita. Ecco, questo cito così in due parole anche un po' il pensiero di Mancuso, faccio una po' una sintesi, Vito Mancuso che appunto è un filosofo molto importante oggi, di cui è bene leggere i testi, anche i testi Mancuso sono molto chiari. Bene, ho fatto una sintesi. Adesso sto dicendo questo perché voglio capire fino a che punto il discorso di Recalcati con questo sta insieme o ci sono delle differenze. Ecco, questo è un punto che appunto dovrei avere la possibilità di discutere. Cosa dice Recalcati proprio a proposito di legge e desiderio? Ecco, dice quando la legge si separa dal desiderio, il desiderio dalla legge, poi succede, allora lì cominciano i guai, perché la legge diventa burocratica, disumana, implacabile e il desiderio diventa capriccio. In nostri termini questo significa che non ci stiamo occupando della legge in senso animico e del desiderio in senso animico, ma della legge in senso egoico e del desiderio in senso egoico, perché l'ego è pronto a confliggere con tutto e quindi l'ego della legge confligge con l'ego del desiderio, ce ne va. Quindi uno dei due poi si metterà in posizione arcontica, dominante, o la legge domina sul desiderio e diventa disumana e taglia le ali ai bambini e ai giovani, oppure il desiderio si separa dalla legge e si oppone alla legge e diventa il godimento fine a se stesso, immediato godimento fino alla morte. Ora, ecco, nel pensiero Aleph arriviamo a questo continuando a utilizzare quello che per noi è la distinzione fondamentale, ego-anima, cioè queste due distinzioni che vediamo qui. Qui abbiamo il livello dell'ego più profondo, più grosso, più duro, il nucleo duro dell'ego è qui. Qui abbiamo l'ego, diciamo, comune, quello che ci consente di vivere senza grossi traumi, di appartenere, ma ancora di non essere buoni cittadini, essere semplicemente abbastanza centrati su noi stessi e quindi vivere ancora nel conflitto. Qui invece abbiamo il superamento dell'ego nella scintilla divina, nell'anima, e lì è la vera natura dell'essere umano, secondo la grande filosofia, perché la vera filosofia, secondo Vannini, è la mistica. Cioè la visione più profonda della filosofia è quella della mistica, perché la mistica porta alle estreme conseguenze il discorso della dialettica. Dialettica vuol dire connettere ogni cosa con tutte le altre, e la mistica è proprio quel modo, quello sguardo sul mondo che consente di osservare ogni cosa ma mettendo in relazione tutte le altre, e questo è anche il movimento dello spirito. Allora, fatta questa premessa, adesso passo un altro video però.